in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Le notizie oggi in prima pagina sono più o meno le stesse per tutti quanti, cambia magari il peso che i diversi quotidiani decidono di dare loro. E cominciamo dal Corriere della Sera, che quindi ha questa foto notizia di questa impressionante Atene sostanzialmente circondata dal fumo più che dalle fiamme. Si vede molto fumo, si vede qualche Canadair che cerca di spegnere questi incendi, ma il titolo, la foto notizia naturalmente dà conto di questo ulteriore problema per Atene, per la Grecia. Però la notizia è quella del rimpasto nel governo Tsipras, via ai dissidenti, sì della Germania ai nuovi aiuti, l'avete sentito anche nel GR. Il titolo principale però è dedicato a quegli scontri e a quei blocchi per respingere i bus dei profughi che ci sono stati ieri a Roma e Treviso. Avete sicuramente seguito la cronaca qui su Radio 24 con tutti gli inviati. Ora naturalmente si cerca di capire, di approfondire cosa fare ora che appunto la rivolta è scoppiata e ci sono state le inevitabili polemiche. E allora due commenti, due gli articoli principali del Corriere, uno di Fiorenza Sarzanini, tre cose urgenti senza isterie, lo trovate a pagina 6, e poi un commento anche di Massimo Franco, la sintonia quasi perduta soprattutto tra lo Stato, i cittadini, ma anche la Chiesa, perché anche la Chiesa naturalmente ha un ruolo e sicuramente anche Papa Francesco, lo dico io, ma mi aspetto che intervenga su questa questione dell'accoglienza. Il Sole 24 Ore titola sulla Grecia, perché ieri come diceva il Corriere, oltre al rimpasto, la notizia è che il Bundestag, che è il Parlamento tedesco, la Germania è uno dei paesi che deve dare un via libera formale a questo piano di aiuti, perché sapete lo pagheremo tutti, sia il prestito ponte che il piano di aiuti successivo. E infatti l'Unione Europea, la notizia è che l'Unione Europea ha sbloccato questo finanziamento, il cosiddetto prestito ponte, da 7,16 miliardi, Tsipras ha varato il suo rimpasto di governo, lo avete appena sentito, e il voto del Bundestag viene poi analizzato, perché in realtà sì, è stato approvato il piano di aiuti, però ci sono 60 cosiddetti ribelli della CDU, il partito dei cristiano-democratici della cancelliera Angela Merkel, che ha votato no. Vi segnalo anche dalla prima pagina del Sole 24 Ore tanti commenti, uno in particolare di Alberto Quadrio Curzio: non c'è Europa senza crescita e investimenti, e l'intervento anche del presidente di Confindustria Squinzi, che ha ribadito le politiche di austerity sicuramente sono necessarie, hanno il loro tempo e il loro perché, ma ora per costruire una nuova Europa queste politiche di austerity devono finire. E poi un interessante approfondimento, lo vedremo anche più tardi, la notizia c'è anche su questi giornali, su altri giornali, ma non con questo, appunto, con questo grado di approfondimento, il provvedimento per far rientrare un po' di quei cervelli che sono i cosiddetti cervelli in fuga, cioè gli italiani che si sono formati magari nelle nostre università anche con formazioni lunghe, con dottorati, e poi sono andati all'estero per varie ragioni, soprattutto perché era più facile, più meritocratico lavorare appunto in università straniere che non in Italia. E allora Cristina Casadei ci spiega, studio e lavoro, un piano contro la fuga dei cervelli. Poi vi segnalo in edicola oggi, come ogni sabato, con il Sole 24 Ore Plus, che è il settimanale dedicato alla finanza e risparmio, c'è un approfondimento molto interessante intitolato Europa giù le mani dai mutui, perché c'è una direttiva, e sapete che le direttive sono quelle misure non decise dal Parlamento Europeo, che come dico sempre è un Parlamento che non legifera, perché comunque le leggi non c'è alcun obbligo che le leggi fatte dal Parlamento Europeo vengano recepite dai singoli stati, c'è invece l'obbligo che le direttive, che sono invece affare della Commissione Europea, vengano recepite, e questa direttiva annulla quella tanto agognata e attesa liberalizzazione che c'era stata addirittura nel 2006 sul fatto che non bisogna pagare penali quando si cambia mutuo, era parte delle liberalizzazioni volute dall'allora ministro Bersani. Ora con questa direttiva potrebbe tornare la penale, quindi sapete tutte le procedure di surroga, la cosiddetta surroga dai mutui, quando uno cambia banca e non deve pagare penale, è un grande traguardo per l'Italia, ma ora tutto questo è un po' a rischio. Tornano le penali di estinzione anticipate abolite da Bersani, titola appunto Plus, lo stabilisce una direttiva UE che l'Italia ha già recepito, perché così deve succedere. Naturalmente moltissimi anche gli altri approfondimenti su Plus, dalla sezione sull'economia dell'arte, Art Economy 24, a tutte le questioni che riguardano la gestione dei propri patrimoni personali. La stampa, la prima pagina della stampa ve la segnalo oggi perché il titolo è anche in questo caso dedicato ai profughi, con questa aggiunta, il giorno della rabbia, ma c'è un reportage bellissimo di Domenico Quirico dal Mali che si intitola Fra i giovani che sognano l'Europa per fuggire dalla fame, perché parliamo di profughi, parliamo di immigrazione, tra l'altro per tanti giorni non ne abbiamo parlato come se la questione non ci riguardasse più, perché era tutto oscurato dalle trattative per la Grecia. Naturalmente i profughi hanno continuato a raggiungere le coste italiane e del Mediterraneo in generale, hanno continuato a partire, e allora Domenico Quirico è andato in Mali, che è uno dei tanti paesi da cui le persone, i migranti, scappano. In viaggio con i migranti partiamo per non morire, e la stampa coraggiosamente tutto questo reportage lo mette a pagina 2 e 3 con foto e approfondimenti. Poi naturalmente la notizia del rimpasto del governo Tsipras, e poi vi segnalo, magari leggeremo anche una parte più tardi, sul caso Borsellino, il caso di Crocetta. Avete appena sentito nel GR una vicenda molto poco chiara, perché adesso pare addirittura il giornalista che ha pubblicato questa intercettazione dice: io l'ho sentita e l'ho pubblicata, ma dell'intercettazione la procura di Palermo, avete sentito, dice non esserci traccia, e anche il giornalista non avere una trascrizione. Quindi capite quanto fumosa sia la questione, e su questo tra l'altro è in ballo il governo della Sicilia e forse anche elezioni anticipate. Vi leggo allora le prime parole del commento di Francesco Lalicata. Antimafia, la vera colpa di Crocetta. Ha toccato tutti i toni del teatro dell'arte la vicenda delle intercettazioni telefoniche tra il chirurgo Matteo Tutino, attualmente agli arresti per irregolarità in danno dei soldi pubblici della regione siciliana settore sanità, e il governatore dell'isola Rosario Crocetta, fino a ieri icona dell'antimafia di successo, sostenuta proprio da quella Lucia Borsellino, figlia di Paolo, che l'intercettazione pubblicata dall'Espresso vorrebbe oggetto di scherno e minaccia del sanitario, coperto dal colpevole silenzio del governatore. E questo articolo poi, appunto, vi dicevo, continua a pagina 23, se ci sarà tempo ve ne leggo un'altra parte. La Repubblica, una fotonotizia scattata ieri a Roma con gli scontri, perché di questo si è trattato, della polizia in tenuta antisommossa e i cittadini che appunto in rivolta perché non vogliono i profughi nel loro rione, nel loro quartiere. Profughi, la battaglia infinita, rivolta a Roma, via di qui. C'è un commento di Ilvo Diamanti, che sapete è un politologo e spesso poi analizza anche sulla base di sondaggi un po' l'umore su tante questioni degli italiani, il titolo del suo articolo, Tra la ferocia e la paura, e poi anche la notizia naturalmente dalla Grecia. Il Messaggero, come giusto aspettarsi, ha un titolo a tutta pagina su quella che viene definita la guerriglia di Roma, e poi tantissimi articoli da pagina 2 a pagina 5 con anche la raccolta di tante testimonianze delle persone che lavorano in quei quartieri. La sintesi fatta in particolare negli scontri appunto a Casale San Nicola è: qui abbiamo tanta paura. E poi la notizia del delitto di Bracciano con la sentenza che ha condannato l'unico accusato, in realtà il fidanzato della ragazza, la annegò, e ieri è stato appunto arrestato perché ha accusato di averla uccisa dopo una lite. Anche qui naturalmente tanti approfondimenti sulla Grecia, e poi anche la notizia, la trovate anche su altri giornali ma sul Messaggero con un po' più di approfondimento, sul fatto che la Camera, naturalmente manca ancora poi l'approvazione al Senato, la Camera ha approvato la riforma Boschi, quindi con la rivoluzione che viene definita una rivoluzione nella pubblica amministrazione, perché potrebbero cambiare, quando poi verrà approvata definitivamente, tutte le norme per i concorsi e i dirigenti appunto nella pubblica amministrazione. Il Giornale, anche in questo caso, titola sulla questione dei profughi: esplode la rabbia, l'Italia in strada caccia i profughi. E poi la fotonotizia invece è dedicata a una vicenda più strettamente giornalistica, personaggio della televisione molto noto, Milena Gabanelli, una grande giornalista che con la direzione di Ferruccio De Borto del Corriere della Sera, che sapete da poco più di un mese non è più direttore del Corriere della Sera, sostituito da Luciano Fontana. Il Corriere della Sera, come tantissimi quotidiani, ha avviato una spending review, come tutte le aziende forse in questa congiuntura. Sono stati annullati alcuni contratti, tra questo c'è quello della Gabanelli, e allora il Giornale titola: il Corriere licenzia la Gabanelli. Era un contratto da 220.000 euro all'anno. E poi un po' la domanda così un po' maliziosa: taglio vendetta, nel senso che tra i molti servizi che avevano fatto parlare molto poi tra i molti servizi andati in onda su Report, che poi magari vengono ripresi dal Corriere, ce n'era uno appunto proprio sulle vicende del gruppo RCS, degli errori manageriali fatti che hanno portato alla difficoltà dei conti. Vi segnalo l'intervento di Nicola Porro, che è vice direttore del giornale, sulla questione di Crocette e delle intercettazioni. Può forse sembrare insolito che Nicola Porro difenda Crocetta, che come sapete è un esponente del PD, mentre il giornale è chiaramente un giornale su posizioni di centrodestra e molto vicino a Forza Italia. Vi leggo la prima parte, il titolo è «Non si impicca un uomo per le parole di un altro uomo». Impiccare un uomo per le presunte parole di un altro uomo, per di più rubate da una conversazione privata, è una barbarie modello ISIS. Da quelle parti si tagliano le gole, da noi si squarciano le reputazioni. Stiamo parlando del caso Crocetta. Un suo amico e sostenitore, Matteo Tutino, un medico ritenuto trafficone, avrebbe detto che la signora Borsellino, assessora alla regione Sicilia, dovrebbe essere fatta fuori come il padre magistrato. Una frase non shock come titolo nei giornali, ma semplicemente cretina disgustosa. Un giornale pubblica, gli indignati permanenti si indignano, il governatore Crocetta si autosospende. Ora, si può essere d'accordo o no sulla legittimità della pubblicazione di questa, legittimità anche solo giornalistica di pubblicare questa intercettazione. Il problema, secondo me, resta che è molto poco chiaro l'origine di questa intercettazione e l'esistenza di questa intercettazione. È veramente questo il punto, cioè se tutto quello che ha l'Espresso è un suo giornalista che l'ha sentita e poi l'ha trascritta, francamente è troppo poco, al di là poi di quello che dice anche Porro, che forse appunto anche fosse vera, trascritta, certificata, messa nero su bianco, forse appunto non si impicca un uomo per le parole di un altro, ma vi lancio questo dubbio che giustamente Nicola Porro pone. La prima pagina dell'Avvenire è dedicata ai profughi con un titolo molto forte, quei no, un insulto a chi soffre, e poi c'è nel catenaccio un accenno a una vicenda che sicuramente avete sentito, che è tremenda, di questa bambina siriana sofferente di diabete alla quale teneva i suoi farmaci, tra cui l'insulina indispensabile per chiunque soffra di diabete, in uno zainetto. Questo zainetto è stato gettato via dagli scafisti e la bambina è morta, come ha raccontato il padre quando poi è sbarcato in Italia. Il Libero titola Guerra ai clandestini e poi ha un grande spazio in prima pagina dedicato al suo compleanno, suo di Libero. Libero compie 15 anni fuori dal coro. All'interno ci sono anche molte delle copertine di Libero, soprattutto quelle, sapete, con quelle caricature. E poi vi segnalo, magari ne leggeremo una parte dopo, un'intervista a Claudio Borghi della Lega, sapete, di Giancarlo Perna. Sapete, Claudio Borghi è da sempre uno dei sostenitori, persino quando Matteo Salvini ha fatto un po' marcia indietro su questa questione, lui continua a sostenere che invece la strada giusta per risolvere molti problemi dell'economia italiana sarebbe uscire dall'euro. Il manifesto Odio Nero, la fotonotizia dedicata agli scontri, e questo titolo si giustifica col fatto che negli scontri di ieri a Roma sono stati protagonisti di questi scontri anche esponenti di Forza Nuova, cioè un movimento di estrema destra. Ci lasciamo un attimo per il meteo e altre notizie, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, che come abbiamo visto dominate da due notizie, quelle degli scontri a Roma e in Veneto e quella delle notizie che arrivano dalla Grecia, con da una parte gli incendi e dall'altra il rimpasto del governo Tsipras. Ma l'Unità decide di fare una scelta diversa, molto bizzarra. Il titolo principale a tutta pagina è 12 miliardi da salvare. Il riferimento è a questa corsa contro il tempo per riuscire a spendere e non perdere l'ultima quota di fondi europei. La fotonotizia, anche qui non c'è traccia né dei profughi né della questione greca, c'è invece una fotonotizia di una persona che beve da una fontana e la notizione è AFA Record, in campo la protezione civile. Questa è la prima pagina dell'Unità. Poi il richiamo a quella rubrica che abbiamo annunciato anche sabato scorso, perché è iniziata sabato scorso e continua questo sabato, sarà così credo per tutti i sabati, Matteo Renzi che risponde ai lettori dell'Unità. È abbastanza divertente, sembra un po' la posta del cuore del PD, io vi invito a leggerla perché secondo me dimostra come appunto questo sia sicuramente tornato in edicola il 30 di giugno, Bologna, un giornale di partito, sicuramente l'Unità, forse l'unico rimasto a questo punto. Vi segnalo anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, in assenza di campionati ufficiali, naturalmente il titolo principale è dedicato al calcio mercato, colpi bollenti, il mercato entra nel vivo e poi i giocatori che la Gazzetta esamina sono Götze, la Juventus all'ok del Bayern, Sala liberato dalla Viola e vicino alla Roma, a Firenze andrebbe destro che continua a pressare anche Zeko, Perisic all'Inter, è questione di giorni, insomma tutti gli aggiornamenti. Ma vediamo il Fatto Quotidiano che ha dato per primo l'anticipazione di quello che sarebbe uscito sull'Espresso ieri, cioè le famosa intercettazione tra Crocetta e Tutino. Il PD lo scarica a metà, Crocetta titola il Fatto, la procura indaga al buio, e c'è poi un intervento di Claudio Fava, figlio di un esponente del PD ucciso dalla mafia e poi è stato anche parlamentare del PD, Claudio Fava, il titolo è soltanto un uomo che dice bugie, dove Fava cerca un po', magari dopo ne leggiamo un pezzo, di un po' allargare, di andare oltre questa presunta esistente, non esistente intercettazione, parlare in generale dell'operato di Crocetta come governatore della Sicilia e soprattutto dei suoi rapporti con Tutino, che lo ricordiamo è agli arresti domiciliari per peculato, truffa ai danni dello Stato, era primario, ma era soprattutto il medico personale di Crocetta. Passiamo alle pagine interne dei quotidiani. Dal Corriere della Sera vi segnalo uno di quegli approfondimenti da un po' da mani sul volante di Gian Antonio Stella, questa volta è dedicato agli appalti, il comuni e il vizio degli appalti senza gara. Pensate che l'anticorruzione, l'autorità guidata da Raffaele Cantone, ha concluso in uno delle molte analisi che sta facendo su tutti gli appalti italiani che si toccano punte del 97%. Appalti assegnati senza gara vuol dire che con quali regole, ci si chiede sempre. I record di questi appalti assegnati senza gara sono ad Aosta, Roma e Milano. Questo lo trovate a pagina 21 del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera al sabato ha anche quella sezione un pochino più leggera, un po' più da weekend, che si chiama Tempi Liberi, e la copertina oggi è illustrata da un quadro di Botero, che sapete è quel pittore e scultore, quindi artista spagnolo che negli anni si è specializzato molto nel ritrarre le persone sovrappeso. Il titolo è Ora parliamo di grasso e la pagina di Daniela Monti analizza appunto queste conversazioni, questo fenomeno delle conversazioni che spesso noi facciamo sulle diete, ma in generale appunto sul grasso. Allora ci dice Daniela Monti, che poi naturalmente argomenta tutto quanto: il vostro argomento di conversazione preferito riguarda i troppi chili o la poca ginnastica? Quasi certamente non siete obesi, ma ossessionati da quelli che gli americani chiamano fat talk, perché le parole pesano tanto. E poi vi segnalo, a proposito di parole che pesano, dalle pagine interne della Repubblica invece un intervento che è stato pubblicato dalla Zeit, che è una settimanale tedesco, e Repubblica, perché ha un accordo di syndication con questo settimanale tedesco, è un intervento di Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze greco, sapete, uscito subito dopo l'approvazione dell'accordo uscito dal governo subito dopo l'approvazione dell'accordo con l'Unione Europea, e poi nei giorni successivi di discussione al Parlamento questa settimana dell'accordo stesso, appunto, è stato molto molto polemico con Tsipras. Il titolo di questo intervento è Schäuble usa la Grexit per minacciare i paesi contrari alla sua idea di Unione Europea, e qui appunto Varoufakis cerca, devo dire, con toni un po' meno accesi di quelli che abbiamo sentito riportare negli stralci di interventi che ha fatto in questi giorni, spiega un po' meglio la sua posizione, che comunque resta quella chiarissima di antagonismo alla soluzione che si è adottata, che lui attribuisce soprattutto appunto non tanto a Angela Merkel ma al ministro delle finanze, il falco Wolfgang Schäuble. Sulla Repubblica anche un ritorno su una questione tra le tante di cronaca che è stata un po' offuscata poi dalla Grecia e da altri avvenimenti, che è quella dell'accordo sul nucleare firmato con l'Iran, che ha tolto a parte delle sanzioni economiche, ma soprattutto speriamo tutti, toglie l'Iran dall'isolamento internazionale. L'accordo nucleare nel giorno di festa, ora arriveranno i turisti, ci racconta Vanna Vannuccini, inviata a Teheran per Repubblica. Dalle pagine interne del Corriere della Sera, del Sole 24 Ore, come vi dicevo, l'approfondimento di Cristina Casadei, lo trovate a pagina 7, su questo piano contro la fuga dei cervelli, accordo tra Confindustria e MIUR, il Ministero per l'Università e la Ricerca, per l'inserimento dei dottori di ricerca all'interno delle imprese, quindi una sorta di alternanza super scuola-lavoro, che che potrebbe appunto riportare nel nostro paese le menti più, tra l'altro spesso, anzi senza spesso, formatesi qui, che poi sono andate all'estero, ma ora potrebbero tornare. A proposito di un altro tema che viene spesso trattato quando si cerca di spiegare le crisi finanziarie, ed è quello degli hedge fund. E Walter Riolfi, nell'approfondimento nelle pagine di Finanza e Mercati del Sole, a pagina 24, fa questo ragionamento: se gli hedge fund mutassero idea sull'euro, senza il progetto di un'unione politica e fiscale, l'unione monetaria si avvia verso la dissoluzione. Ecco, questa questione dell'unione monetaria, quindi l'euro, ma l'assenza, come sappiamo, di una politica di un'unione politica, che di fatto non c'è, perché tutti i nostri governi, come molti pensano sia giusto, continui a essere così, hanno un'autonomia politica, e soprattutto c'è un'autonomia fiscale. Ovviamente ogni paese ha il suo fisco. E allora ci spiega Walter Riolfi: dopo l'infelice soluzione della crisi greca, molti grandi investitori hanno cominciato a dubitare sul futuro e l'irreversibilità dell'eurozona. E quindi un altro spunto di riflessione su questa questione: eurozona sì, eurozona no, si può uscire o no dall'euro. Sapete per esempio che il presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, intervenuto questa settimana sulla questione greca, ha detto assolutamente non si pone nemmeno il problema di un'uscita di un paese, in questo caso la Grecia, ma in futuro chissà di un altro, dall'euro. Dalla pagina interna dell'Avvenire, che come sempre dico ha il merito di magari parlare di questioni che gli altri giornali dimenticano, magari trattano un giorno in un modo molto approfondito e il giorno dopo quasi ignorano, ecco per esempio la questione delle poste. Sapete che è in atto una riforma delle poste, sono stati chiusi molti uffici postali. Paolo Viana ci racconta: nell'attesa che le commissioni parlamentari e la GCOM esaminino il testo, si tenta di comprendere i meccanismi dell'operazione della riforma delle poste. Ci devono essere nuove garanzie per il recapito, perché sapete che potrebbero anche cambiare tutte le modalità di recapito delle lettere, non più tutti i giorni ma per esempio a giorni alterni. E poi un altro approfondimento, perché sapete che mentre c'era in corso la crisi greca c'era anche in corso un crollo delle borse cinesi, e di cui si è parlato molto, ma adesso non se ne parla già più perché hanno ripreso un pochino a crescere. E allora scrive l'Avvenire: per salvare le borse Pechino ha speso 193 miliardi di euro. Pensate alle altre cifre, no, con cui confrontare queste grandezze, per esempio i 7 miliardi del prestito ponte. Il governo potenzia il prestito ponte per la Grecia, di cui abbiamo parlato all'inizio, stanziato appunto dall'Unione Europea. Il governo cinese, scrive l'Avvenire, potenzia l'agenzia statale che può agire sui mercati a fondi per 444 miliardi. E poi vi segnalo un intervento di Papa Francesco di ieri: ascoltiamo il grido delle vittime delle miniere, un settore chiamato a cambiare radicalmente. Naturalmente non è tanto o non solo in Italia che ci sono ancora tanti rischi, ma come sentiamo a volte in quei fatti di cronaca in cui in paesi soprattutto del Sud America, ricchi di materie prime ma che devono essere estratte dalla terra, ci sono degli incidenti nelle miniere. E allora il messaggio del Papa nella giornata di riflessione sui danni provocati dalle attività estrattive, appunto, di Papa Francesco. Vi dicevo l'uscita dall'euro, a pagina 10 di Libero l'intervista di Gianfranco Perna a Claudio Borghi Aquilini della Lega: usciamo subito dall'euro, in 3 anni l'Italia rinascerà. Questa la teoria di Borghi. Prima di lasciarvi vi segnalo anche tutti i settimanali in edicola al sabato, Io Donna con il Corriere della Sera, di Dire Pubblica con La Repubblica. Sono i due femminili che però io sono sicura che vengono letti, vengono guardati o almeno sfogliati anche da molti uomini, quindi la definizione femminile mi fa un po' ridere. E poi invece con la Gazzetta dello Sport, il settimanale del sabato, che si chiama Sport Week, con tra l'altro un interessante legame con la Grecia, perché il titolo della copertina è Forza Grecia, un paese in crisi cerca un modo per sentirsi ancora in Europa e tornare alla normalità, lo sport può aiutare a farlo, siamo andati ad Atene per capirlo. E infine invece con il Manifesto, il supplemento Alias, che poi troveremo anche domani, supplemento culturale, così come con Tutto Libri all'interno trovate, così come con La Stampa all'interno trovate appunto Tutto Libri, e per soprattutto approfondire un po' le novità librarie. Ci lasciamo un attimo per il traffico e poi ci ritroviamo con la rassegna europea.